Ey. Ofra. Yeah. Nu mina nove. Hej, du MC. Du MC. Fit. E ne ho due. Yeah. La maison sulla traccia. Da Ekans. Sulle mani, PA. Ok, sono mafioso. Vieni dalla cosca. Ma di quella gente con piede nella fossa. Io non son vigliacco come Maria. Denaro perché non sono scappato per andarmene lontano. PA 09, la mia sì, dove sto? Drew MC, e ne ho due. Qui canta la maison. Tu sei uno di quelli parra parra. Se scappa, scappa quando sgarra, sgarra. Ehi. Sparo su sto mic e spacco su sto beat. Sono qua da Ekans che sfonda con il mix. E se anche stavolta tu resti all'asciutto, è perché anche sto pezzo traspacca di brutto. Oh, uomo non farlo, uomo non farlo, altrimenti parlo e non ti conviene. Uomo non farlo, uomo non farlo, altrimenti parlo e fra non ti conviene. Uomo non farlo, uomo non farlo, altrimenti parlo e fra non ti conviene. Uomo non farlo, uomo non farlo, nah, altrimenti parlo e fra non ti conviene. Attenzione, qui scatta la mia furia, sempre al centro di una rissa o di un'ingiuria. Adesso sono io che parlo sulla traccia e vi espongo con il flow la mia frequenza. E questo è il tema che dovete rispettare. Non stare a guardare cosa ti devi aspettare. Meritare ciò non te lo consente, perché quando rappo mi ascolta la mia gente. Spente illusioni senza un brivido di gioia. Cerchi in vano la tua gloria, fottuta troia. Resti solo una scoria della falsa società. Io rimarrò una storia per la mia serietà. Uomo non farlo, uomo non farlo, altrimenti parlo e non ti conviene. Uomo non farlo, uomo non farlo, altrimenti parlo e fra non ti conviene. Uomo non farlo, uomo non farlo, altrimenti parlo e fra non ti conviene. Uomo non farlo, uomo non farlo, nah, altrimenti parlo e fra non ti conviene. Fotti tu fatti, ma me con chi fotti? Torna Drew, adesso guardami negli occhi. Ti senti il best MC, l'erede di Tupac. Ma uomo vali zero, quindi man. Ho saputo che ti piace anche la Chiquita. E sei la mia, l'adora anche la tua mamma Sita. Yo man, yo is a motherfucker. And you dress only a bad, bad sucker. Non sei un rapper perché fumi troppo. Non sei un MC perché ti tiri di cocco. L'hai presa così tante volte che hai il culo rotto. Piacere, sono Andrea, ma tu chiamami Rocco, eh? Ok, e questo è Drew MC. Sulla traccia, beat NO2 MC. Qui alla Maison, Palermo, 2009.